Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. E noi, quando diciamo che siamo qui per chiedere l'applicazione della nostra Costituzione, siamo qui non come conservatori, come qualcuno ci dice. Poi, sentite, quando uno conserva delle cose belle, io non trovo che sia una accusa particolarmente grave. Però vorrei dire, perché qui si rischia di cambiare il senso alle parole, che se c'è qualcuno qui che vuole cambiare questo paese, siamo noi che lo chiediamo a partire dall'applicazione integrale dei principi della nostra Costituzione, a partire dal lavoro, a partire dalla democrazia, a partire dagli investimenti pubblici e da una nuova politica industriale. E con le parole di Maurizio Landini che torniamo in studio qui a Luce nelle Tenebre. Un saluto da Peppe, Ilaria, Flavia. E queste parole non siamo stati gli unici ad ascoltarle. Direttamente da Roma, sabato scorso, sabato 12 ottobre, abbiamo partecipato alla manifestazione a cui Libera ha aderito. Cioè, io non c'ero, però... La tua presenza non era necessaria, caro. Sicuramente non era necessaria, ma col cuore c'ero, perché sabato a Roma, con la Costituzione via maestra, si è andati avanti per le strade della capitale a portare avanti un messaggio non indifferente, che adesso ci racconta un po' Ilaria, ma anche Flavio. La manifestazione è partita da Piazza della Repubblica, vicino Termini, ed è arrivata in un'ora e mezza. Anche sì. E in Piazza del Popolo. La piazza si è riempita in un modo eccezionale. Erano 50.000, quanti eravamo? Sinceramente non ho guardato eravamo i numeri. Tantissimi. Però gli stessi organizzatori, tra cui, vabbè, c'erano Donciotti, Landini, Zagrebelsky, Rodotà, la Cannassare, sì, e si sono stupiti per l'affluenza. Cioè non si aspettavano questo numero. Tutta Italia. Sì, compreso il nostro, che è partito molto presto la mattina. Troppo. Ed è arrivato molto tardi la sera, sì. Ok, ma per dire cosa? Per dire che la Costituzione non si tocca. La necessità di difendere la Costituzione è sorta in seguito alla proposizione del disegno di legge 813 che prevede la revisione costituzionale dell'articolo 138 della nostra Costituzione, il baluardo posto appunto a presidio della nostra carta costituzionale. Il baluardo sì, peccato che c'è una gran fretta di stracciarlo via, tant'è che negli ultimi giorni si è proceduto a raffica nella modifica della nostra Costituzione, la modifica dell'articolo 138 che sicuramente tutti quanti conoscete voi lì che ci ascoltate dalle vostre radio. Mai il Parlamento ha osservato così in maniera così religiosa i tempi previsti e soltanto martedì scorso e c'è stata la terza lettura del disegno di legge. Appunto, ricordiamo a chi non lo sapesse che l'articolo 138 prevede per le revisioni costituzionali una doppia rilettura di entrambe le Camere, quindi quattro riletture. L'ultima sarà a dicembre. E cosa succederà se passerà a dicembre, cioè verrà approvato il disegno di legge 813? Succede che intanto dipende un po' da come viene approvato. Queste larghe intese, lo sapete, ci danno sotto alla grande, quindi se viene approvato con la maggioranza dei due terzi non potrà essere posto un referendum da parte dei cittadini, potrà essere chiesta la proposta di referendum per abrogare la riforma costituzionale che ci dovremo tenere, quindi saremo forse noi poi a chiedere che venga cambiata proprio per la modalità di partecipazione dei cittadini. Intanto ci teniamo questa situazione con una preghiera a ben 23 senatori di fare un minimo di disobbedienza civile nei confronti di quello che impone il partito, e magari ci rivolgiamo un po' a quella parte sensibile che ci ha sempre affiancato sui temi della legalità, della Costituzione via maestra e tante belle parole che adesso vorremmo vedere al nostro fianco per evitare che situazioni del genere, che sono al limite del reale, possano porsi davanti a noi. Anche perché una manifestazione come quella del 12 ottobre e la raccolta firme che è stata fatta dal Fatto Quotidiano quest'estate, che ha raccolto più di 440.000 firme, comunque sono un indice del fatto che non tutti sono d'accordo con questa operazione che in cui si sta, diciamo, dilettando il governo e anche il Parlamento. E non si può evitare di non tener presente questo. Non si può evitare, no, infatti noi non ci arrendiamo, saremo presenti anche sabato 26 ottobre al fianco dell'Ampi in piazza Nettuno, dalle 15 alle 18 sarà con noi anche Carlo Smuraglia, il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, per dire ancora una volta che la Costituzione è la via maestra. Mi piace sempre ricordare Don Ciotti quando ci dice che la Costituzione è il primo testo antimafia che l'Italia repubblicana ci ha regalato. Poi magari se fossero seguite tante altre misure ci avrebbe fatto ancora più piacere, ma intanto che abbiamo la Costituzione ce la teniamo stretta. Anche perché una delle poche cose buone che ancora ci sono in Italia è l'idea di stravolgere pure questo, cioè il nostro testo principale, mi sembra veramente un'idiozia, non volendo prendere posizioni troppo estreme. Ma svaghiamoci un attimo a quegli anni in cui la Costituzione era ancora tale, nessuno si sognava di modificarla se non per alcuni aspetti, diciamo sicuramente meno peggiori di quelli che stiamo vedendo oggi. Vi lascio ad Aida di Rino Gaetano. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Lei spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, suoi rosari e mille mari, e alla là, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte, e dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto è un'altra età, marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Sei bella. notizia. La Costituzione italiana è ora anche di quelle persone come me, uomini e donne che viviamo in questo paese, che veniamo da paesi lontani, dei nostri figli nati e cresciuti qua ma che non sono considerati italiani. Noi la Costituzione l'abbiamo fatta nostra. E guai, guai a chi pensa che criteri, concetti come libertà, giustizia, democrazia, uguaglianza di genere non appartengono ai migranti. Questi criteri non sono criteri di alcuni popoli, di alcune culture, sono criteri universali. Se la Costituzione venisse applicata in questo paese, non esisterebbe la legge sull'immigrazione, la 286, il testo unico, e non esisterebbero neanche i centri di identificazione ed espulsione dove vengono rinchiusi i migranti, violando l'articolo 2 della Costituzione, solo perché abbiamo scelto di cercare una vita migliore, come hanno fatto i vostri nonni, ma come stanno facendo i vostri figli ora, in Germania, in Brasile, negli Stati Uniti, dove sono anche loro clandestini in questo momento. La tragedia di Lampedusa ha portato sui giornali la non accoglienza che questo paese non offre ai migranti e ai rifugiati. Quello che abbiamo appena ascoltato è un altro estratto di un intervento della manifestazione del 12 e la voce che abbiamo ascoltato è quella di Edda Pando, fondatrice del Comitato Immigrati in Italia. Abbiamo scelto il suo tra gli altri interventi che abbiamo ascoltato quel giorno perché ci richiama alla mente quello che è successo il 3 ottobre e la strage di Lampedusa che ci ha sconvolto e colpito tutti. E la polemica poi aperta dalla Pando è quella sulla legge Bossi-Fini e dei danni che ha causato e della sua, diciamo, presunta costituzionalità. Sì, parliamo della legge, la legge 189 del 2002 sull'immigrazione, legge che prende il nome dai suoi due ideatori, possiamo chiamarli così, Fini e Bossi. E cosa prevede questa legge? La legge prevede l'espulsione emessa in via amministrativa dal prefetto della provincia al momento in cui un immigrato che si trovi sul suolo italiano clandestinamente viene catturato, viene trovato e nel momento in cui viene trovato deve essere naturalmente accompagnato immediatamente alle frontiere per l'espulsione. Questo quindi, perché? Se non sbaglio, vi è la previsione del reato di clandestinità. Esatto, esatto. Perché questo? Cioè, possiamo subito capire, secondo me, come la chiave di questa legge sia comunque un indole, uno spirito razziale, razzista. Perché? Leghista. Leghista. Oggi ho sentito un'affermazione, non mi ricordo di chi, loro non sono razzisti, sono leghisti. Esatto. Perché? Perché? Perché si deve fare ordine pubblico, tra virgolette, lo straniero, quindi... A me sembra che ci sia una violazione chiara dell'articolo 3 della Costituzione. Quindi la costituzionalità di questa legge, direi. Lascia un po' a desiderare. Infatti in questi inoltre giorni... la legge prevede permessi di soggiorno a punti, il che naturalmente rende molto difficile per uno straniero regolarizzare il proprio soggiorno in Italia, perché deve dimostrare di avere uno stipendio fisso, un lavoro fisso, deve dimostrare di avere ottenuto dei certi livelli della conoscenza della lingua italiana, se non sbaglio, conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, cosa che non sa. Dopo la strage a Lampedusa si è aperta la polemica sulla legge Bossi-Fini, come se si fossero accorti adesso della gravità della cosa. Infatti, come prima abbiamo detto, contro la modifica che vogliono fare alla Costituzione, la Repubblica ha sempre indetto un'altra raccolta firme, sono state raccolte circa 100.000, ma continua. Beh, si è partita da poco. Per appunto abolire questa legge, che chiamarla legge è... E paradossalmente il giorno in cui noi ci trovavamo in Piazza del Popolo a Roma a manifestare per la difesa della Costituzione, a Torino i leghisti si riunivano per difendere appunto la legge Bossi-Fini. Vediamo come ognuno abbia intenti diversi. Voglio leggere, posso leggere un tratto dell'omelia recitata a San Pieri qualche giorno fa in occasione di funerali dei 13 morti il 30 settembre, un altro dei tanti sbarchi della morte. In Libia migliaia e migliaia di cittadini africani aspettano ogni giorno di partire, mettersi in mare alla ricerca di un Eden che non c'è, perché in Libia vengono trattati come animali, sono soltanto carcasse. Nonostante questo, la nostra Corte Costituzionale si è non si è pronunciata al riguardo, ha semplicemente detto che questa legge, nonostante tutto, non è incostituzionale. Ma nonostante questo, ultimamente ha incominciato a riconoscere che i diritti che la nostra Costituzione riconosce sono diritti inviolabili, in quanto tali dovrebbero essere riconosciuti anche ai cittadini anche agli stranieri. Sicuramente sì, e non è solamente un dato giuridico, ma è anche un dato umano. Lo ricordiamo che dopo la morte di quei 13 a San Pieri, e c'è stata anche quella dei 300 a Lampedusa, per i quali non è stato previsto un funerale perché chiaramente le salme erano troppe, quindi non occorreva disturbarsi a contattare i familiari. Comunque sì, è stato fatto, ma gli si è dato il tempo di raggiungere l'isola e comunque salutare i propri cari, mentre i funerali a Roma, anzi ad Albano Laziale, a un certo Prib, che sicuramente non gli rinneghiamo. Adesso però alleggeriamo un po' i toni, ascoltiamo i Noah and Whale con Five Years Time. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun. That I've ever been, and I'll say, I no longer feel I have to be James Dean, and she'll say, yeah, well, I feel all pretty happy too, and I'm always pretty happy when I'm just kicking back with you. And if you love, love, love all through our bodies, and love, love, love all through our minds, and if we love, love, love all over her face, and love, love, love all over mine. And though moments are just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed, and I know that a million that might not even come true, but in my mind I'm having a pretty good time with you. Oh, in 5 years time I might not know you, in 5 years time we might not speak of. E Ed eccoci di nuovo con la nostra amata, ormai io e Flavia siamo amanti, innamorate di questa rubrica, ci divertiamo molto. La rubrica Buffie. Abbiamo parlato oggi? Abbiamo parlato di fotografia la volta scorsa, la prima volta di un libro del nostro che libro che ci ha dato anche il nome, sì, alla rubrica stessa. E oggi parliamo di cinema. Parliamo specificamente di Milk. Milk, che prende il nome da Milk, dal suo protagonista. Parlaci del film. L'hai visto tu? Milk, sì, certo. L'hai visto insieme. Il film è del 2008 ed è di Gus Van Sant e narra con un bellissimo Sean Penn come protagonista. Esatto. Narra la storia di Harvey Milk, che è un personaggio realmente esistito. Sì. Ed è ambientato nell'America degli anni, della fine degli anni 70, sì, inizi anni 70-80, ed è la storia di appunto quest'uomo che è omosessuale, che ha cominciato la sua attività politica dopo la sua esperienza a San Francisco, dove con il suo compagno ha aperto un negozio di fotografia. Questo negozio si trovava proprio nel quartiere irlandese stracattolico ed diventò presto un centro d'aggregazione degli omosessuali della città, facendo sorgere in Milk appunto la voglia di mettersi in politica. Esatto. Quindi, infatti si candiderà come consigliere comunale, riuscirà quindi ad entrare in politica e nel momento in cui entrerà in politica continuerà e farà sempre, facendola diventare sempre più forte, la sua battaglia per il riconoscimento dei diritti appunto per gli omosessuali, degli omosessuali, così tanto da suscitarsi da ogni parte le ire naturalmente di una società fondamentalmente omofoba come a quei tempi e non solo, e sarà proprio per questo che nel 78 sarà ammazzato. Svincolarci sì, ma questa volta non potevamo non tenere presente uno dei più belli articoli della nostra Costituzione, l'articolo 3, il principio di eguaglianza, che potremmo declinare in tantissimi modi e ne abbiamo voluto declinare proprio per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica ed economica e sociale del Paese. Turned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run.